Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 00 24, chiamate in diretta fino alle 19. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi in regia. La classifica ve la leggo: Roma 27 punti, Napoli Juventus 22, Inter e Fiorentina 18, Verona 16, Parma Atalanta 12, Lazio e Milan 11. Questa sera manca ancora la partita tra Lazio e Cagliari. Adesso è davvero difficile non dire che questa Roma può sognare e costruire una stagione da scudetto. Non una vittoria consecutiva dopo aver sofferto le pene dell'inferno, anche aver rischiato, forse meritato di perdere a Udine, però questa secondo me è una medaglia in una giornata come oggi. Questo è un pomeriggio che può essere una pietra miliare della stagione, da tanti punti su cui riflettere. C'è anche da osservare da vicino la situazione del Milan, sconfitto a Parma all'ultimo secondo 3-2. 800 24 00 24 insieme fino alle 19. Carlo, ci sei? Presente, ciao Giovanni. Ciao Carlo, la nostra prima pagina. L'ultimo a riuscirci era stato Capello nell'autunno del 2005, 9 vittorie su 9 partite, scudetto vinto in carrozza prima che Calciopoli cancellasse tutto. La Roma non si ferma più, senza Totti, senza Gervinho, con un uomo in meno, soffrendo, restando in piedi, colpendo da grande squadra. Trotman zona tiro, Bradley! E la Roma passa con Michael Bradley, entra dalla panchina, sblocca il match in 10 uomini. Vola la Roma e dietro ci sono loro, la Juventus affamata alla Conte, con qualche gol sbagliato di troppo, ma anche con la Pasce lì quando serve. Attenzione, Tevez può andare col destro, dribbling, Tevez! Carlos Tevez si inventa il quinto gol in campionato. E poi c'è il Napoli che non mostra la faccia feroce ma quella un po' pacciosa di Benitez, eppure 9 partite vinte su 12 fin qui tra campionato e Champions, eppure Higuain ritrovato. Oggi possiamo dire che ancora siamo al 75%. Sempre 75%. Rimane. Cioè, quando ci è arrivata al 100%? In che mese? No, non credo che si arriva mai al 100%, ma... Al 90%? Sì, vogliamo avvicinarsi al 100%. Tutti guardavano a Parma, la testa liscia di Balotelli, niente cresta, niente orecchini, niente Ferrari. Solo 51 minuti in campo prima di lasciare Amatri, fuori lui, dentro il Milan, anche se alla fine non è bastato. Insomma, la sfida tra Bad Boy l'ha vinta quell'altro. Si può vedere Cassano, pallone per lui, Cassano! Antonio Cassano, il raddoppio del Parma! E poi ci sono due ragazzi, due che hanno più o meno l'età di Balotelli. Uno a Motegi ha fatto il ragioniere e adesso è a un soffio dal vincere il mondiale delle moto da debuttante. L'altro, beh, l'altro è già leggenda. Done it in style. Fantastic, you're a four-time world champion. Brilliant, brilliant drive. You joined the greats. Well done. Yes, yes. Tutti convocati. 800 24 00 24, Carlo, io faccio fatica a mettere insieme le emozioni, anche i temi di questa domenica mattina, di questa domenica pomeriggio, non lo so, da dove partiamo? Dal fatto che ci siamo svegliati presto per vedere Lorenzo che vince in casa della Honda, Marquez a un passo dal titolo e poi sempre in mattinata Vettel di nuovo campione del mondo, dicevi bene tu, già leggenda, poi il Napoli che vince un pomeriggio... Secondo me è divertentissimo quello che abbiamo visto oggi. Un tema può essere la Juventus che aveva provato sulla sua pelle gli errori arbitrali avversi a Madrid, oggi magari ha avuto qualcosa in cambio perché ha dominato, Sì, ha stradominato. Vabbè, parliamone. Sì, a me interesserebbe più, Carlo, parlare, ma non oggi, perché oggi secondo me ce ne sono altri di temi. Disastro gli arbitri, disastro anche oggi, non solo a Torino, anche a Napoli. Anche la partita del Napoli è stata condizionata da un paio di fischi incomprensibili, almeno uno. Però a me interessa di più la Roma. Guarda che se vinci una partita come quella di oggi a Udine, io faccio pubblica ammenda, ma in fondo sotto sotto sono ancora convinto che la Roma non sia da scudetto, però se tu vinci queste partite qui il segnale è di quelli che è impossibile ignorare. Sì, hai anche le stelle a favore, perché oggi hai detto bene anche qui prima, non meritava forse neanche il pareggio, o quantomeno un pareggio ci stava, e la Roma puntava al pareggio dichiaratamente, visti i cambi di Garcia, era in 10, espulsione di Maicon, anche in 11 contro 11 aveva sofferto e insomma, di Natale qualcosina aveva sbagliato, forse non è più quello di un tempo, gli anni passano anche per lui, non solo per Valentino Rossi. E insomma, se vinci partite come queste vuol dire che sei fortissimo, ma che hai anche le stelle a favore. D'altra parte, la Roma può non essere da scudetto, però se valutiamo le squadre dal lago della bilancia del centrocampo, io non ne vedo, forse solo quello della Juventus pareggia quello della Roma. È certamente una squadra molto, molto attrezzata, gioca benissimo a calcio, non ha pecche, anche oggi non ha preso gol, e non ricordo quanti siano i minuti di imbattibilità di De Sanctis, ma siamo sopra i 600. Altro tema interessante è il Milan, che vabbè, oggi bocciato il numero 45, Kaká ha acceso la partita, però il Milan in difesa è da fin degli orrori, perché Costanti, io non capisco come possa giocare titolare, è possibile che non ce ne sia neanche in primavera uno meglio di lui. Sì, Costanti, che è stato umiliato da Biabiani. Ti descrivo la faccia di Allegri, che sta per iniziare a parlare ai microfoni di Sky Sport. Lo sentiamo, sguardo davvero dei giorni brutti. Secondo me c'è una riflessione da fare all'interno del Milan. Sentiamo Allegri. Sono due partite diverse. Un conto è giocare in un certo modo col Barcellona, un conto è giocare oggi contro il Parma. Paradossalmente il primo tempo, non creando poco, una o due situazioni, abbiamo preso tre contropiedi e abbiamo preso due gol. Il secondo tempo, dove abbiamo rischiato di prendere il 3-0, poi dopo la squadra si è ripresa, ha avuto la palla anche nel 3-2, è stato bravo Mirante, dopo abbiamo tenuto il campo e alla fine c'è stata questa punizione dove abbiamo preso gol. Dispiace perché la squadra poi aveva reagito bene, aveva fatto anche una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. È normale che abbiamo delle disattenzioni, un pochino più di furbizia di lettura della partita. Abbiamo preso un gol alla fine, a 30 secondi alla fine del primo tempo, già nel tempo di recupero, e abbiamo preso il terzo gol alla fine della partita, quando mancavano 40 secondi del tempo di recupero. Una volta fatto lo sforzo, bisognava non concedere più niente e accettare il 2-2, perlomeno cercare di giocare l'ultima palla in modo migliore. Invece sì, secondo me, Carlo, non è poi così normale che il Milan abbia queste disattenzioni. Non so cosa ne pensate voi. 800 24 00 24, Carlo. Altro no, che non normale. È normale, ma anche nella galleria degli orrori ci mettiamo anche l'ultima punizione. Gabriel mette due uomini in barriera che erano Birsa e Matri, e questi sul tiro di Parolo si aprono, la palla gli si infila in mezzo, ma nell'angolino che dovevano coprire quantomeno quei due uomini in barriera. Quindi io non so, più di così per perdere una partita onestamente non si può fare. Devo dire che il Milan ha meritato di perdere, perché l'attraverso di Gargano, perché non è vero che, come dice Allegri, che il Parma nel primo tempo ha giocato in contropiede. E poi c'è Balotelli. Sentiamo ancora Allegri, Carlo. Ha fatto Toto Poli, che il primo tempo aveva fatto un buon primo tempo. La squadra reagita, ha giocato. Purtroppo aveva perso una partita che fino al 2-0 magari meritavamo di perdere, dopo invece no, e questo significa che non siamo ancora equilibrati, che passiamo da grande attenzione che abbiamo in Champions a magari a alcune disattenzioni che abbiamo in campionato. Senti, guardando la classifica, c'è molto da preoccuparsi. Secondo me c'è molto da preoccuparsi, Carlo, per il Milan, anche guardando la prestazione di oggi di Balotelli. Tanto per cambiare, aveva tutti gli occhi addosso, ha giocato meno di un'ora, una cinquantina di minuti, senza troppi spunti, un giallo per simulazione netto. Raccontano le cronache anche di un altro mezzo tuffo in area di rigore. Non lo so, fuori lui è entrato il Milan, poi è andata male. Però l'impressione è che in questo momento Balotelli sia più una dispersione di un patrimonio di energie, non solo per se stesso ma anche per il Milan, piuttosto che un vantaggio. Sì, però questo sarebbe il momento in cui aspettarlo, perché è normale, tutti i giocatori, soprattutto in situazioni difficili, molto incasinate come questa, dove c'è, entra di tutto, qualunque cosa, anche che non c'entra nulla col calcio, cioè se credi in un giocatore, se Balotelli era il capo giocatore del Milan fino a un mese fa, allora lui ha crisi, lui ha problemi, lo aspetti, non lo togli sul 2-0 al 50° minuto, perché sotto di due gol, perché non si fa così, lo aspetti. Ho l'impressione ci sarà molto da parlarne in settimana. Secondo me è così. Anche se in settimana poi c'è poco tempo, perché c'è Milan-Lazio mercoledì sera. Carlo, resta lì qualche secondo, c'è il traffico subito. Scusa, non ho capito. Scudetto in francese, come lo traducete? La vittoria del titolo? Non c'è una traduzione. Scusa che non capito, c'è un'altra domanda, non ho capito la domanda. Sì. tutti convocati. Ennesima partita così così, traduco in italiano perché quello che c'è scritto su questo tweet non si può dire in radio, di Balotelli. Sentiamo ancora Allegri. Ho tolto lui perché si stava nervosendo e poi soprattutto perché era anche ammonito e non volevo correre il rischio che prendesse anche una seconda ammonizione. Però non è stato un buon primo tempo, dai, sicuramente conoscendo quanto lei chiede a Balotelli, l'ha detto anche in settimana, non penso che sia stato infatti, contento. No, insistendo un attimo, scusa Massimiliano, su questo solco che ha tracciato Massimo, questa normalizzazione, tentativo di normalizzazione di Balotelli, del quale si è parlato tanto in settimana, tutto sparizione di creste, di orecchini, di Ferrari, di case... nel Comasco, sparizione però, anche di Balotelli in campo oggi, perché Balotelli è stato spento, usa un eufemismo, nei 51 minuti che ha giocato, e poi lo ha detto anche Allegri, è stato sostituito perché già ammonito, nervoso, rischiava anche di finire peggio. Io vi invito, se non l'avete visto, ad andare a rivedervi la simulazione che gli è costata il cartellino giallo. Ancora un passaggio di Allegri, poi salutiamo Carlo. Molto lui, come spesso si avviene durante la settimana, io credo che lui deve pensare solamente a giocare, fare delle migliori prestazioni, e soprattutto quando giochiamo con lui solo davanti bisogna che faccia meglio centravanti, ha tutte le qualità, le caratteristiche per farlo. Credo che, come tutti gli altri giocatori, quando uno ha una giornata storta può essere anche sostituito. Sì, meglio di oggi di sicuro. Carlo, per chiudere, io non credo che si discuterà di un esonero di Allegri, però ho l'impressione che se da qui a Natale le cose non cambiano, così come è accaduto l'anno scorso, qualcosa possa accadere. Sì, è situazione identica a quella dell'anno scorso. È chiaro che il Milan non è una grande squadra, però è anche evidente che non ci stanno, dopo 9 giornate e 16 punti, tra il Milan e la prima in classifica, sia sulla Roma, la Juventus o un'altra squadra. Quindi è evidente che questa squadra ha tantissimi problemi. Adesso c'è la Lazio, poi c'è la Fiorentina, poi c'è il Barcellona, vediamo che cosa esce da questo trittico e poi se ne ridiscuterà. Io comunque, anche sentendo Allegri, ho la sensazione che poi non verrà mai confermata, perché se c'è un pregio del Milan è avere i muri degli spogliatoi impermeabili, però la sensazione è che sia successo qualcosa lì dentro, soprattutto tra Allegri e Balotelli, perché questa guerriglia anche verbale io non la capisco. Assolutamente, grazie Carlo. A voi, ciao Giovanni. Grazie Carlo Genta. 800 24 0024 Antonio da Isernia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego, a lei, Antonio. Sono Capuano. Dica. Senta un po', sono Capuano, mi lasci un po' qualche secondo perché mi voglio un poco sfogare, perché sì, è però veloce l'ora. Antonio, perché fra un po' c'è Conte, i microfoni di Sky, prego. Sì, su Allegri. Questo signore deve andare via il più presto possibile. Oggi ha dimostrato che la squadra che sta andando così è solo colpa sua. Ha distrutto il Milan. Questo non fa altro che predicare benissimo e razzolare malissimo. Sì, ha avuto ragione Berlusconi. Io non so, Antonio, fin dove ci siano le colpe di Allegri. Prego, dai. Veneto, che non capisce un cazzo. Addirittura. Deve prendere solo esempio da Garcia e dalla Roma. Sì, mi sembra che la qualità della Roma complessivamente sia superiore, però, Antonio, rispetto a quella del Milan. Roberto da Milano, 800-24-0024, prego. Buongiorno, innanzitutto, buongiorno, signor Capuano, come della trasmissione. No, anch'io riguardo al Milan sono un po' deluso, perché pensavo che andassero meglio le cose, ma vedo che... Però, appunto, come diceva adesso il signore di prima, non sono d'accordo con lui, perché cosa c'entra Allegri se la società ha fatto altri acquisti che non è a piacimento di Allegri, insomma. Io non sono d'accordo, Allegri ha le coppe fino a un certo punto, ma non come... sono anche i giocatori, ahimè, che non sono come dovevano andare, e poi voglio dire, non ha fatto questo calcio mercato come si deve. Sì, mi sembra, Roberto, che la qualità complessiva di questo Milan sia una delle più povere delle ultime stagioni. Da questo punto di vista non c'è assolutamente dubbio. Poi, per amor del cielo, ci mette del suo anche Allegri, probabilmente qualche scelta è sbagliata. Oggi, ad esempio, Costanta ha sofferto Biabiani. Biabiani sembrava Robben, però è anche vero che ci sono gli infortuni, manca De Sciglio, e quindi ci sono delle difficoltà oggettive. Grazie Roberto. Saluto Guido Vaciago, inviato di Tutto Sport, reduce dallo Juventus Stadium. Ciao Guido. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio anzi a tutti. Vedi com'è la vita degli allenatori. Ti faccio sentire, se gradisci e se hai qualche secondo, le prime battute di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Juve-Genoa 2-0, Juve che mi è sembrata finalmente affamata come la voleva Conte. Sentiamolo. Sì, penso che sia stata una buona prestazione, così come la prestazione c'era stata a Madrid, come c'era stata anche a Firenze per i primi 70 minuti. Le ultime due partite sicuramente non sono, secondo me non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ha preso subito in mano la partita, l'abbiamo dominata facendo due gol, e penso anche che potessimo farne diversi. Abbiamo chiuso imbattuti questa partita, anche questa è una notizia. Bene, continuiamo a lavorare. Noi sappiamo che la strada che dobbiamo percorrere la sappiamo benissimo, la conosciamo. Dobbiamo continuare a lavorare e fare quello che stiamo facendo, sempre con maggiore intensità. Questo è Conte, Guido Vaciago, inviato di Tutto Sport. Dicevamo com'è la vita degli allenatori. Ieri il più nervoso mi sembrava Conte, se vogliamo fare un paragone con Allegri. Oggi le due facce sono decisamente differenti. Sì, ma Conte in vigilia è quasi sempre nervoso, al punto da far pensare che sia non sempre una questione di sentimento reale quanto magari un atteggiamento studiato, ma comunque sì, è vero, siamo legati alla traiettoria di un pallone, quindi poi alla fine i nervosismi salgono e scendono a seconda del caso. Devo dire che sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Conte. È vero che la Juventus ha raccolto meno sia di quello che poteva meritare, sia a Firenze che a Madrid. Però sia a Firenze che a Madrid è stata causa del suo mal, e quindi non è stata sfortunata, è stata, se vogliamo, disattenta, distratta, svogliata, non lo so, scegliamo poi l'aggettivo con cura, ma comunque ha perso le due partite per colpa sua. Sì, Grafe c'entra anche fino a un certo punto, secondo me si è anche un po' enfatizzata la prestazione, certamente negativa, dell'arbitro tedesco al Bernabeu. Credo che si fosse giusta enfatizzarla. Molto più intelligente, Grafe, secondo me, enfatizzare due errori difensivi nei primi 20 minuti, certo, che non si possono certamente concedere al Real Madrid. E a Cristiano Ronaldo, però, guarda, io ti dico, secondo me era giusto enfatizzare gli errori di Grafe, perché Grafe ci ha privato di uno spettacolo che era quello potenziale del secondo tempo, perché il primo tempo era stata una partita che ero presente al Bernabeu, era una partita godibile, una partita tutto sommato giocata ad armi pari, in cui spiccavano le due ingenuità difensive, ma tutto sommato spiccava anche una Juventus molto vogliosa e anche determinata e tutto sommato anche ben organizzata per mettere in difficoltà il Real. La sciocchezza dell'arbitro Grafe ci ha privato di uno spettacolo calcistico. Poi poi c'è un'analisi che è certamente, esatto, un po' più ampia. Oggi, dopo 20 minuti, ti dico la verità, Guido, ragionavo sulla Juventus che si era mangiata 3-4 gol praticamente fatti, era in assedio dal fischio d'inizio e non trovava la via della rete. E ho pensato, mi sembra un vecchio vizio, quello dell'anno scorso, cioè tornare a fare questo discorso, manca ancora l'uomo da 20 gol a stagione. Poi lasciamo stare il rigore, che probabilmente non c'era nemmeno in questa occasione. Però è arrivato Tevez, che mi pare essere comunque in questo momento l'uomo centrale di questa Juventus. È l'uomo centrale in assoluto, non soltanto in campo ormai, secondo me, anche fuori, o comunque anche per l'atteggiamento che ha in campo. È l'uomo centrale non soltanto per la sua tecnica, ma anche per la sua per il suo atteggiamento. Dopo la partita di Madrid, che giustamente di cui prima parlavamo, discutendo di quanto abbia inciso l'arbitro, è stato l'unico che nel dopopartita non ha parlato di arbitro, ma ha fatto una forte autocritica sugli errori fatti. Quindi ha parlato come un leader, e come un leader che non cerca spiegazioni, non ha attaccato l'arbitro, non si è attaccato lui all'espulsione farlocca di Chiellini. Quindi secondo me, quando lo vedi in campo fare certe cose e quando lo senti parlare, capisci che Tevez si sta prendendo la Juve in un momento difficile della squadra. Che voto gli dai domani su Tutto Sport? porta? Guarda, stavo guardando le pagelle. Tra il 7 e il 7 e mezzo. Tra il 7 e il 7 e mezzo per Tevez, domani su Tutto Sport. Grazie Guido. Grazie a voi. Grazie Guido Vaciago. C'è Conte che stava proprio parlando di Tevez. Io vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Andrea ha scritto su Twitter, chiocciola tutti convocati. È vero, abbiamo dominato Perin strepitoso, però io ho visto ancora grosse difficoltà a concludere, ad ammazzare la partita. Vero secondo me, vero però soprattutto in quella prima mezz'ora. Poi sinceramente la Juventus mi sembra sia andata sul velluto. E ancora 349-238-6666, brava Roma, sei una macchina perfetta al momento, mi chiedo però come reagirai dopo la prima sconfitta, Sebastiano, me lo chiedo anch'io, però io so da oggi come hai reagito alle prime vere difficoltà, la mancanza di Totti, di Gervinho, il fatto di giocare mezz'ora con l'uomo in meno, questo secondo me è il peso specifico importantissimo, pesantissimo di questa vittoria Udine. Ci fermiamo, pubblicità, meteo, poi torniamo. 800 24 00 24. La danza che non muovo mai i piedi, solo di bacino, ma non so ballare, sono una pippa. Tutti convocati. C'è un Conte particolarmente carico, microfono di Sky Sport. Di intenti, è sbagliato, perché si vuole far passare questo messaggio, perché? Perché si vuole destabilizzare, questa è la verità. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi, iniziate a non dire fesserie. In generale non sto parlando di voi, non sto parlando, io in generale dico, iniziate a non dire fesserie, iniziate a parlare di calcio. Perché a volte mi sembra che interessa più l'aspetto esteriore che quello giocato. Conte, io tutti questi nemici esterni alla Juventus sinceramente non li vedo. La Juve sta andando, 22 punti, l'anno scorso dopo 9 giornate ne aveva 25, ma può capitare, la Juve sta comunque correndo. Non ci fosse la Roma a punteggio pieno, la Juve sarebbe prima insieme al Napoli. Non lo so, ditemi che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Intanto a Stamford Bridge 32esimo del primo tempo, 0-0 tra Chelsea e Manchester City. Claudio da Milano, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Prego. Niente, io volevo dire su Allegri, io sono convinto, forse sarà un'opinione molto personale, che Allegri si vorrebbe dimettere. Se ha un ma minimo perché? Di, ma di, perché? No, si vuole dimettere perché la colpa è di ripartire tra lui e Galliani, chiaramente, che hanno fatto una campagna. Diciamo acquisti che lascia così una difesa inguardabile e così via. E però, chi ha chiesto di fare la campagna a costo zero? Chiaro, anche la proprietà chiaramente ha delle responsabilità. Perché in tutto questo a me Allegri, Claudio, mi perdoni, poi la faccio concludere, mi sembra l'anello debole di questa catena. Sì, può essere, però siccome sa che Allegri l'anno prossimo non sarà più l'allenatore del Milan, questo tira a campare così via fino a fine anno, dopodiché vada come vada il Milan probabilmente arriverà, non so se a metà classifica, mi auguro da tifoso che arrivi nei primi 4-5, ma non credo, perché le altre squadre obiettivamente hanno qualcosa in più. Allora il signor Allegri non doveva neanche accettare una squadra di questo genere, perché la difesa obiettivamente è così, non so se rasentiamo il ridicolo o il paradosso, non lo so, guardi, da tifoso si rimane stupefatti a vedere una squadra di questo genere. Io sottoscrivo quello che lei dice, non capisco dove sia la colpa di Allegri, però se poi nell'ultimo giorno di mercato gli prendono Matri e Kakà e non magari quel difensore centrale che serve, per amor del cielo, poi anche Allegri ha le sue colpe. Maurizio dalla provincia di Chieti, buon pomeriggio. Buonasera dottor Capuano. Prego. Senta, a proposito di, intervengo, sono tifoso milanista, sì. E intervengo a proposito di Allegri. Io ho sempre difeso questo allenatore perché lo conosco dai tempi, avendo giocato a Pescara, quindi dai tempi di Galeone. Però devo dire che ultimamente le colpe sono anche sue, non soltanto della società, perché un allenatore che fa giocare Constante, che non ha nulla a che vedere con la storia del Milan, Birsa e qualche altro, io penso che sia meglio far giocare qualche ragazzino della primavera, ma questo con il Milan non c'entra nulla. Mi scusi se sì. per il mio sfogo, però non so chi poteva allenatori... giocare al posto di Constant, poi l'ho detto, oggi Constant sì, a partita da 4, sì, ridicolizzato da Biabiani. Stefano Eragno, cosa ne pensi, Stefano? Diciamo che Costa ha avuto una giornata difficile, anche perché di fronte c'era un Biavini ispirato, un Biavini che è anche vero che la squadra comunque non ha tutelato tanto, anche i centrocampisti non hanno tutelato proprio la posizione di Costa, perché è anche facile dare colpa a solo un giocatore, ma quando si sa che da quella parte c'è uno che ha un passo differente, magari si cerca di aiutare con qualche strategia tattica. Purtroppo il Milan del primo tempo non è stato brillante, il fatto di aver perso tante energie mentali contro il Barcellona poteva capitare quello che è capitato oggi, cioè partire con il freno a mano tirato con singolarmente delle prestazioni non all'altezza, però poi è anche vero che poi nel secondo tempo è cambiato qualcosina. Sì, io fatico a trovare un filo logico nella partita di oggi, ma non solo in quella di oggi del Milan, a guardarla da fuori. Uno per 60 minuti pensa questi giocano contro l'allenatore, poi uno vede i 5 minuti successivi, dice no, questi sarebbero disposti a dare il sangue, la vita per l'allenatore, poi vede il finale. Io vi invito a vedere come è piazzata la barriera, o meglio come si muove, come si dispone la barriera sul gol di Parolo al 94 che costa ad Allegri la sconfitta, e si fa davvero fatica. Intanto Chelsea in vantaggio 1-0, 34esimo Schürrle. Stefano, ti chiedo un minuto di pazienza perché sta iniziando a parlare Rudy Garcia, che è il dominatore di questo campionato. Sky Sport, sentiamo Garcia. Interiore clamorosa, un carattere enorme. Nel momento dell'inferiorità numerica l'Udinese si è fermata e è venuta fuori la Roma. Questa forza interiore sta facendo la differenza? È così dall'inizio della stagione, non è oggi solo, però è vero che vincere qui, che è un stadio, un campo molto difficile, lo sappiamo tutti che non hanno perso da più di un anno, e anche abbiamo giocato in 10, era una cosa forse molto bella e forse molto importante per il futuro per noi, e conterà alla fine della stagione sicuro. Andando all'analisi del primo tempo, abbiamo visto loro... Stefano, forza mentale, consapevolezza, capacità anche di sacrificio. Mi sembra che, se vogliamo fare un parallelo, ma non è solo una questione di punti in classifica, la Roma in questo momento sia l'esatta copia al contrario di quello che è il Milan. Beh, diciamo che se quando la stagione è quella giusta va tutto bene, anche oggi il fatto di essere in 10 uomini si è visto che comunque il cambio Bradley e Boriello era per comunque contenere una partita certamente che si stava avviando in un binario difficile per la Roma, invece lo stesso uomo che doveva contenere ha fatto anche vincere la squadra, come abbiamo visto contro il Napoli. Ha sofferto il Napoli, la prima parte di gara avrebbe potuto meritare il vantaggio in più di occasioni, poi quando meno te l'aspetti comunque c'è tanta, la Roma c'ha anche tanta qualità e potrebbe essere proprio l'anno giusto proprio per tutti questi episodi favorevoli, perciò danno sicuramente forza a tutto l'ambiente. Non c'è dubbio. Tornando al Milan, che voto dai a Balotelli oggi? Ma Balotelli... Allegri l'ha bocciato. Ha fatto male per l'atteggiamento, ma non solo lui, lo stesso anche Robinho al primo tempo, Birsa anche che si è dato una bella palla a Pioli, un po' tutta la squadra era stata un po' sottotono, anche lo stesso Montolivo aveva sbagliato tanti passaggi, mentre invece nel secondo tempo tutti quanti sono cresciuti, però è anche vero che il gol del rilancio del Milan è stato comunque un rimpallo su Cassano, è venuta fuori una palla gol di Matri che ha rilanciato un po' il Milan, ha dato speranza e per 30 minuti ha fatto molto bene, però è anche vero che il Parma poi gli ultimi 5 minuti aveva di nuovo avuto due ottime occasioni, poi in quella più stupida, se mi permettete, anche perché palla punizione come hai detto te, la barriera si è allargata. Sì, va proprio un po' a spasso, al di là delle indicazioni di Gabriel, al di là del tiro, bello, però da molto lontano. Sono gol che non si possono prendere. Io segnalo nove partite di campionato, Milan 16 gol fatti, 16 subiti. Sono numeri molto simili all'Inter di Stramaccioni dell'anno scorso. Lo dico perché poi queste secondo me sono davvero le cartine tornasole che ti aiutano a valutare una stagione. Quest'anno, in questo momento, il Milan alla metà dei punti rispetto alla squadra che occupa il terzo posto, sono Juventus e Napoli insieme, meno 11 contro 22, è la stessa distanza di un anno fa rispetto al terzo quarto posto. Ho l'impressione però che rispetto a un anno fa passi un mondo fra questo e quel Milan, anche a livello di capacità mentale di uscirne. Ah sì, anche perché comunque ci sono altre squadre che si sono rinforzate, certamente che nel cammino non perderanno più posizioni come hanno fatto in precedenza, perciò quest'anno sarà molto difficile. Il fatto di oggi di aver visto comunque rinunciare a Balotelli, pur giocando una brutta partita, però c'erano altri che secondo me sono meno determinanti e hanno giocato male come ha giocato Balotelli. Balotelli io lotterei comunque sempre sino al 90esimo, anche perché forse è l'unico che ti garantisce realmente in zona gol una percentuale altissima. Sì, anche se oggi prestazione davvero incolore. Sentiamo ancora un passaggio di Rudy Garcia. Su una partita, sì, su due o tre è molto difficile. Quando si gioca in 10 abbiamo bisogno di essere tutti con le linee strette, con un blocco difensivo anche più aggressivo, e giocare sulla velocità e sui calci piazzati. E per questa cosa che è uscito Marco Borriello e che sono entrati soprattutto Marchinho, che lui ha velocità. Questo è Garcia, non so se gli hanno chiesto se la Roma è da scudetto o no. Lui fin qui è stato molto bravo a depistare, a tenere lontano il peso del pronostico da questa squadra. Per chiudere, Stefano, che cosa ti è sembrato della Juventus e del Napoli? Secondo me due vittorie semplici, al di là che la Juve ha fatto fatica nella prima mezz'ora e che il Napoli ha avuto bisogno di un paio di episodi a favore. Io continuo a ritenere che questo sia il duello che ci porterà fino alla fine della stagione per lo scudetto. Mi sembra che il Napoli sia cresciuto molto in fretta rispetto a quelle che potevano essere le attese, considerato che ha cambiato tutto a partire dall'impianto di gioco. Eh sì, e poi anche i risultati comunque portano, come ho detto prima, linfa nuova, energia, comunque una squadra molto competitiva, una squadra di grande qualità, però secondo me la Juventus rimane sempre e comunque adesso, visto che la Roma è davanti, leader, certamente il pericolo numero uno per la Roma, perché ha comunque una squadra che ha migliorato ancora la sua qualità tecnica con Tevez e soprattutto l'Oriente, però devo dire che ha una squadra che può realmente recuperare i punti persi in questo inizio di campionato, perché ce l'ha le qualità per farlo. Grazie a Stefano Ragno. Grazie a voi. Ciao, ciao Stefano, giornata. Grazie. Rudy Garcia sta tenendo una vera conferenza, evidentemente soddisfatto di quello che ha visto oggi della sua Roma, anche se ha detto difficile giocare sempre in 10. Quello che è successo questo pomeriggio deve essere un caso. 800 24 00 24. Michele da Padova, buonasera. Sì, buonasera a Prego. Tutti. Niente, io tifoso della Juve. Oggi ho visto una Juve come l'anno scorso. Sì, mi sente? Sì. Sì, buonasera. Tifoso della Juve, volevo parlare. Oggi ho visto una Juve come vedevo l'anno scorso, che correva. Queste due o tre partite che ha perso, secondo me le ha perse di testa. E basta, solo calo di testa. Io volevo fare una domanda però, legata un po' all'andamento delle due o tre partite. Volevo chiedere, quando rientra Simone Pepe? Che secondo me un laterale destro, che può giocare sia a destra che a sinistra, che quando punta all'uomo crea superiorità numerica, ci farebbe molto, ancora molto comodo. Sì, quello è Pepe, però, che ci ricordiamo di un annetto fa ormai, purtroppo. Pepe non è ancora pronto a giocare, non è ancora pronto a rientrare. I suoi guai fisici li conosciamo, ci vorrà ancora un pochino, però attenzione, è un giocatore che di fatto è quasi fermo da un anno e quindi anche una volta che tornasse disponibile, secondo me non bisogna aspettarsi che possa far fare alla Juventus quel salto di qualità che ad esempio con un cambio di modulo con il 4-3-3 in tanti si aspettano. Ho l'impressione che se la Juventus vorrà dare a Conte la possibilità di giocare con dei moduli differenti rispetto al 3-5-2 dovrà intervenire a gennaio sul mercato, perché altrimenti diventa difficile. Grazie Michele, ci fermiamo, c'è il traffico. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese. Tutti convocati. Ancora 1-0 per il Chelsea sul Manchester City, in quello che è il match più interessante di questo tardo pomeriggio della domenica. C'è anche il 2-0 del Monaco sul Lione. Stiamo parlando di Ligue 1, c'è Maurizio da Roma, c'è anche Montella che sta per iniziare a parlare ai microfoni di Sky Sport. Maurizio, allora le chiedo qualche istante di pazienza. Con Montella c'è un giocatore che mi fa impazzire, che è Cuadrado, autore oggi di una doppietta straordinaria, soprattutto il primo gol. Andate a vederlo con una fuga sulla sinistra, una sterzata e poi diagonale sul secondo palo, qualcosa di simile a quello che ha fatto ieri sera Neymar nel classico. Cuadrado, un giocatore, un top player secondo me. Sentiamo Montella. Aspetta, c'è l'allenatore. Benissimo, quarto benissimo, posto in classifica per la Fiorentina, a pari punti con l'Inter, quota 18. Sì, oltre a farlo aspettare, non so se magari non vuole farle montare la testa, secondo lei Cuadrado è uno dei migliori esterni d'Europa a livello europeo, cioè è arrivato a livello dei grandi? Ma questo non lo so, sicuramente per caratteristiche è un giocatore unico, l'abbiamo visto oggi, ha segnato da esterno alto a sinistra in 4-3-3, ha segnato e ci è andato due volte vicino da esterno destro in 3-5-2 come abbiamo iniziato il secondo tempo, quindi può fare tutto. Sì, allora, può fare tutto certamente. Maurizio da Roma, buon pomeriggio, anzi buonasera. Ah, buonasera. Prego. Buonasera. Senta, io sono tifoso del Milan e sì, quindi volevo evidenziare come non ritengo sia colpa di Allegri la sconfitta o le sconfitte o le brutte figure a cui stiamo andando incontro, ma sia essenzialmente colpa della dirigenza, perché Allegri chi giustamente deve mettere in campo, non ha altri giocatori. È stata la dirigenza che pensa che di ripetere continuamente come una sorta di mantra siamo forti, siamo competitivi, pensa di poter esorcizzare una scarsità di uomini, di capacità che è impressionante. Cioè non si fa la squadra ripetendo che siamo a posto così. Cioè la squadra del Milan è impresentabile, con acquisti fatti a parametro zero. Entra Mate ed esce Boateng. Cioè non vedo quale possa essere la responsabilità di Allegri. Sì, poi forse soprattutto Maurizio, colpa essenzialmente per me della dirigenza. Sì, soprattutto Maurizio, glielo dico come la penso. Penso che comunque il Milan aveva una sua identità tattica e l'ha avuta fino al 29 agosto e poi in una notte quell'identità tattica è stata smontata perché a giugno Berlusconi aveva imposto che il Milan avrebbe giocato col trequartista, è tornato Kakà, fra parentesi, comunque Kakà oggi positivo è entrato insieme a Matri, ha dato la scossa al Milan, ma in ogni caso quel Milan che per parole anche di Galliani comunque aveva anche giocato bene, oltre che a ottenere la qualificazione alla Champions League battendo il PSV Eindhoven, è stato smontato in una notte e ad Allegri è stato consegnato il compito di ricostruirlo con la qualità che è quella che vediamo in mezzo al campo. Saluto Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Direttore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Processo ad Allegri. Posso aprire la chiacchierata con te con una battuta? Sì. Pensa Allegri oggi quante volte probabilmente ripensa a quell'offerta della Roma e a quella possibilità a giugno di sedere sulla panchina che oggi è di Rudy Garcia? Beh sì, però il calcio è fatto di occasioni, di treni che passano, di momenti, insomma se ne potrebbero raccontare a decine di episodi come questo, anche che hanno riguardato il Milan stesso, che riguardano la Roma, che hanno riguardato la Juventus. Certo, quello c'è stato un momento in cui era stato molto vicino, era uno dei tre allenatori che in quel periodo giravano come nomi attorno a quello della Roma, e poi è spuntato a sorpresa il nome di García. Sì, io continuo a chiedermi chi la fa fare un allenatore di fare quello che ha fatto Allegri a giugno, compreso l'incontro ad Arcore con Berlusconi, il comunicato sui diritti e doveri dell'allenatore, sul modulo tattico. Credo che molto delle difficoltà del Milan siano anche figlie di quelle settimane. Parliamo però di chi ride. Roma-Napoli, ci metto anche la Fiorentina, vedo un Montella assolutamente sorridente. C'è un campionato che si è un po' spostato a centro-sud. Diciamo che non era prevedibile quest'estate, quando si facevano le carte a questa stagione. Beh sì, insomma, ci sono dei discorsi che si intersecano con altri discorsi. Uno è quello degli allenatori, appunto. Mi ricollego a questa coda, a questa scia su Allegri e al suo tormentato rapporto con il Milan. Chiudo dicendo su questo argomento, dicendo soltanto che il Milan dovrebbe solo ringraziare Allegri per quello che ha fatto finora, con le mille difficoltà che ha dovuto sopportare, e soprattutto con una scarsa tutela, nel senso, l'unico che ha creduto sempre lui sicuramente è stato Galliani, però poi è difficile, è dura riuscire a gestire uno spogliatoio e quindi introdurre degli elementi tattici anche riguardanti l'aspetto caratteriale, quando sai che all'interno della stessa asse societario non c'è una totale fiducia. Sì, scusa questa parentesi. Ma io te la ribalto questa parentesi sulla Roma, ad esempio. Sì. Proprio quest'estate si è chiarito, è andato via Baldini, Sabatini pieni poteri, anche forse la facilità di lavorare con una società più snella, più forte, probabilmente più vicina, probabilmente con meno teste che pensano. Ma bravissimo, io rivendico a gran voce il ruolo della stampa, in assoluto dell'attività mediatica, del fatto che comunque si possono esprimere delle critiche, perché per il mio percorso professionale posso raccontare che, per esempio, quello che è accaduto alla Juventus ha riguardato proprio un ribaltamento di una società che prima era nelle mani di una società, come dire, simpatica ma perdente, in mano a Blanc e Cobolli. Quando ero direttore di Tutto Sport facemmo una campagna affinché questa immagine venisse cambiata con un assetto un po' più produttivo, e infatti invocammo allora il ritorno sia di Agnelli sia l'arrivo di Marotta. Accadde quello, e poi ecco, le conseguenze le abbiamo viste. Non per questo noi ci riteniamo, perché la stampa come giornalisti sono sempre dei testimoni, non dei mediatori di un qualche cosa, testimoni di una situazione, e quindi esprimono critiche. Mi fa sorridere infatti ciò che ha detto Conte l'altro giorno, dicendo appunto alla stampa: quando si fanno delle critiche si destabilizza, perché lui, quando ha criticato la sua stessa società sulla cessione di Matri, che cosa faceva? Destabilizzava. Sì, l'ha ripetuto anche oggi, pochi minuti fa, tra l'altro anche arrabbiato, abbastanza alterato. Sì. Conte sì, molto nervoso in questo inizio di stagione. Farebbe bene a calmarsi, perché Conte insomma, è stato assolutamente celebrato ed elogiato per quello che ha fatto, però nulla toglie che in questo momento non viva un rapporto di assoluta sintonia, nel senso che sicuramente le critiche le ha fatte alla sua stessa società, non è stato probabilmente soddisfatto del mercato, avrebbe voluto qualche altra cosa ed è legittimo farlo, ma non è che ogni cosa poi, ecco, non ha storia e non ha tempo, le cose si dicono, si fanno e avvengono, quindi come ecco è avvenuto in passato che diciamo una critica giornalistica ha aiutato determinate situazioni, io credo e ritengo giusto che anche per riguardo alle squadre di cui ci occupiamo prevalentemente, Roma e Napoli, sia giusto sottolineare che in passato la Roma ha fatto gravissimi errori con i due allenatori che si sono succeduti, con un assetto societario che aveva moltissimi ruoli, anche dei doppioni, e adesso invece con una chiarezza di fondo, una linearità di comportamenti, un assetto e una gestione anche dello stesso spogliatoio, che è servito a dare la svolta. Poi alla fine non è che c'è bisogno di grandi miracoli. Basta, sì, bisogna cercare di essere razionali, ma spesso queste risorse magari sono già dentro la società. Abbiamo pochi secondi, direttore. Sì. Giovedì 31 ottobre, ore 20:45, Roma-Chievo all'Olimpico. Ho l'impressione che i prossimi 4 giorni saranno difficili per García, per tenere tutti con i piedi per terra. Abbiamo una ventina di secondi. Sì, e questo è il pericolo maggiore in questo momento. Però mi sembra, ecco, ho sentito anche le battute che ha rilasciato nel dopopartita, mi sembra una persona che la prende sia con filosofia che con ironia. Sono le armi giuste in certi momenti. Grazie al direttore De Paola. Grazie a voi. Grazie direttore del Corriere dello Sport. 800 24 0024. Noi adesso ci fermiamo perché c'è il notiziario, poi torniamo, c'è Pierluigi Pardo, c'è il processo al Milan, ad Allegri, a Balotelli, c'è la Roma che vola, 9 su 9, c'è Serse Cosmi. Notizie. In genere lei prende molti appunti durante la partita. Questi 90 minuti ho visto che ha scritto poco, pochissimo, forse mai. Segno che gli è piaciuto veramente tutto? No, ho scritto qualche cosa, ancora abbiamo qualcosa. Poco. Guarda qua. Poco, poco. Tutti convocati. Intanto il Manchester City ha pareggiato pochi secondi fa a Stamford Bridge contro il Chelsea, grandissimo gol del Kun Aguero, 1-1 fra Chelsea e Manchester City. Il Monaco ha segnato Falcao, sta vincendo 2-0 contro il Lione. In entrambi i casi siamo nei primissimi minuti del secondo tempo. Osman dalla provincia di Milano, 800 24 0024. Buonasera Osman. Sì, buonasera. Prego. Sì, volevo intervenire per quanto riguarda il momento del Milan e sulla difficoltà di Allegri. Questo è quello un po' il mio pensiero. Credo che in questo momento ed è chiaro che giocatori di qualità e grandi giocatori non possono arrivare a Milano, ma quello che manca a me sembra, nella difficoltà e nella possibilità, i giocatori che all'interno dello spogliatoio e che abbiano comunque anche una capacità in questo momento di prendersi un po' la responsabilità e anche di assorbire il momento di difficoltà. Credo che nel Milan ci sia sempre stato un po' la caratteristica, anche nel momento chiaramente del grande Milan, però di giocatori che erano l'ossatura portante, quindi l'aiuto che un allenatore può trovare da questo Allegri credo che non lo possa avere. Sì, Allegri si gira nello spogliatoio e trova Montolivo capitano, che è un degnissimo capitano, però dietro Montolivo c'è poco, forse c'è Abbiati che è ancora l'ultimo custode di quella vecchia guardia. Pier, ci sei? La verità è che trova un po' poco, cosa ne pensi quando si gira in spogliatoio Allegri e guarda negli occhi suoi in questo momento sì, difficile? C'è un problema di qualità diffusa, Milan diciamo che ha cercato di sopperire a questa mancanza di qualità complessiva con una serie di scintille straordinarie, poi straordinarie fino a un certo punto, nel senso che comunque fino a questo momento penso a Kakà e Balotelli ovviamente, che sono i due giocatori che potenzialmente possono far fare il salto di qualità a questa squadra, però i problemi sono diffusi, quindi anche in una partita come questa, nella quale comunque trovi delle fiammate, trovi Madri che finalmente si sblocca, e è una reazione che c'è stata, perché ti dico la verità, insomma era difficile immaginare dopo i primi 50 minuti che il Milan sarebbe tornato così prepotentemente in partita, però poi c'è sempre l'errore in agguato, al di là dei meriti di Parolo, quindi è veramente una situazione insomma che secondo me corrisponde a tutta una serie di limiti che ha questa squadra. Io rimango dell'idea che qualche posizione verrà recuperata sicuramente, però se guardiamo la distanza che c'è col terzo posto, come diciamo sì, sono gli 11 punti che scorso, c'erano più o meno l'anno scorso. L'anno scorso era Ciapanò, quest'anno pensare che una quest'anno corrono Roma, tutti. Inter, Roma, Juve, Napoli, ma anche Inter e Fiorentina crolli in quel modo, mi sembra difficile. Cioè, al Milan in Champions oggi è un biglietto della lotteria. Assolutamente, mi sembra, Pier, che la stagione del Milan da questo punto di vista sia segnata. Gabriele da Roma, 800 24 0024. Gabriele, buonasera. Prego. Buonasera a tutti. No, volevo fare una domanda. Non voglio mettere in dubbio la crescita della Roma, che sicuramente è la più importante in questo campionato, ma se vediamo anche l'Inter, pensate che possa dare fastidio ai giallorossi nel proseguo della stagione? Pier, la mia risposta è no, no, perché mi devo piegare a quello che ho visto oggi. La Roma è in uno stato di grazia tale per cui ti fa anche venire il dubbio che possa essere da scudetto. Tu cosa ne pensi? No, da scudetto sicuramente. Non considerare da scudetto una squadra che ha vinto le prime 9 partite sarebbe una roba blasfema, lo dico sinceramente. Io poi sono convinto che nelle 38 partite la Juve abbia di più, è la mia idea, e anche il Napoli secondo me come potenziale ha qualcosa di più. Sì, però la Roma ha cominciato a vincere delle partite che, no, sai quando dici segni, ma perché nel calcio nulla è casuale. Vincere una partita in 10 contro 11 con questo spirito, questa mentalità, senza Totti, senza Gervinho, con tutta Italia giustamente che stava gufando, perché è chiaro che Juve e Napoli speravano che la Roma non vincesse e c'erano tutte le circostanze perché questo potesse avvenire. Questa è una dimostrazione enorme di forza. Questa squadra trova sempre delle soluzioni. E poi tra l'altro ha un calendario nelle prossime 5 partite molto molto interessante, perché ci sarà lo scontro diretto Juve-Napoli, perché comunque Juve-Napoli fino a dicembre hanno le coppe. Insomma, io penso che oggi per me non è ancora la favorita per il campionato. No, però oggi ha messo una pietra di quelle importanti. Dobbiamo toglierci il cappello, e c'è una chiave straordinaria di questa squadra che dal dolore del 26 maggio è riuscita a tirar fuori il meglio di sé. Questa è una chiave, se vuoi, psicologica, filosofica quasi, della vita, che c'è sempre o quasi una seconda possibilità, a patto di saper incanalare bene le energie. Sì, sull'Inter, Pier, così rispondiamo all'amico che ci ha chiamato. L'Inter sta facendo il suo e penso che continuerà a farlo, perché Mazzarri è bravissimo, perché la squadra comunque ha delle qualità. Non mi sembra una squadra da scudetto, mi sembra una squadra che può arrivare in Champions League se una delle prime tre dovesse inabissarsi. Sì, può arrivare Pierre in Champions League se la quota sta a 70 punti, 71, 72, non oltre. Il rischio è che quest'anno la quota sia nettamente superiore, per provare a fare qualche numero. Poi io ti dico che fossi un interista, qualche campanello d'allarme secondo me suona, perché i gol presi cominciano a essere tanti. Mazzarri dice non è colpa dell'assenza di Campagnaro, non sarà colpa di quello, però il problema è che l'Inter da 3-4 partite viaggia alla media di un paio di gol presi. Sì, però la partita di ieri secondo me tu dovrai vedere sempre nel suo senso, no? È un po' come il discorso di Napoli e Juve oggi, ci sono stati sicuramente degli episodi arbitrali, però il senso della partita era quello, insomma, non c'è stata mai la sensazione secondo me a Napoli, così come a Torino, che Napoli e Juve questa partita non riuscissero a vincere. Lo stesso discorso vale per l'Inter ieri, per cui sì, poi adesso magari è un po' champagnona in certi momenti l'Inter, si concede qualche amnesia. Però la vittoria di ieri secondo me è stata di grande autorevolezza, sì, quindi non sarei a sovrastimare certamente meritata. Pier, c'è il traffico, poi quando torniamo c'è Serse Cosmi, se non sbaglio lui è tifoso della Roma, giusto? Beh, sicuramente ha una forte simpatia, fra l'altro ti dico che a proposito di traffico io sono in questo momento anche davanti a me, c'è traffico, quindi proprio quando la radio entra nella vita, perché c'è traffico anche qui, adesso lo lanciamo, traffico. Verrà sempre a San Siro a seguire l'Inter o no? Sì, ma vado in popolare, però che mi diverto di più. Tutti convocati. 800 24 00 24, breve nota a margine, dicono le cronache oggi allo Juventus Stadium i soliti cori, quelli che per la giustizia sportiva italiana configurano discriminazione territoriale, e quindi Juventus che va incontro probabilmente alla chiusura di uno o più settori sospesi con la condizionale. Pier, te l'avevo promesso, c'è Cosmi, buonasera mister. Ciao Serge. Mister, facciamo fatica, proviamo a riagganciare la linea. L'hai promesso, ma... io te l'ho promesso, però arriva, cioè, sto guardando Giorgio De Luca dietro il vetro e mi ha garantito la presenza di Serse Cosmi. Adesso proviamo a riagganciarlo. Intanto Chelsea e Manchester City che se le stanno dando di santa ragione. Ci riproviamo? No, bisogna aspettare ancora. Lo stiamo richiamando, Pierre, è caduta la linea. Sì. Guarda, ti posso dire una cosa del Napoli di oggi, a proposito di quello che dicevo prima, chiaramente la partita che ho seguito, gli episodi arbitrali sono stati evidenti, devo dire tra l'altro che più lo guardo, anche il primo rigore, più mi rendo conto che è stato quantomeno bravo Mertens, bravo. Insomma, sì, è andato a prenderselo, rigore che non c'era, via. Il secondo veramente non si sa come possa essere. Il rosso non c'era, quindi gli episodi della partita sono stati molto chiari in una direzione. Detto questo, mi sembra che questo discorso può valere sia per Napoli che per Juve oggi, mi sembra che gli episodi arbitrali alla fine hanno favorito la squadra che dava comunque la sensazione di portarla a casa. Poi manca la controprova, per carità, quindi i tifosi del Torino e del Genoa possono comunque essere arrabbiati sui singoli episodi, però la sensazione è che fosse quella la logica delle cose che si stavano vedendo in campo. Il Napoli è partito più aggressivo, il Torino non riusciva mai a fare un giro palla di grande pericolosità, l'ha riconosciuto lo stesso Ventura. Sì, ma oggi il Genoa per il primo tempo praticamente non è uscito dalla sua metà campo. Buonasera Serse Cosmi, mister, buonasera. Buonasera. buonasera a tutti. Da dove partiamo? Partiamo da questo sogno della Roma. Io non so se lei quest'estate si era iscritto al partito di quelli che credevano nella squadra di Garcia o se faceva parte, io mi ci scrivo, il partito degli scettici. Invece, guarda qui, 9 su 9. No, io partivo da due convinzioni. La prima in assoluto su una persona che sono già 3 anni che è la Roma, che è Walter Sabatini. Siccome lo conosco bene, ho avuto la fortuna di lavorare con lui per diversi anni e so le sue qualità. Quindi partivo da questa considerazione, quest'anno orfano di qualche convivenza vicino, però secondo me è stata la fortuna sua e della Roma, perché Walter è un accentratore positivo. E questo credo che sia stato, magari per molti sarà un dettaglio, ma per me che conosco lui e da lontano la Roma, credo che sia stata la vera fortuna di quest'anno. E poi la scelta, diciamo, cioè, dei giocatori che erano comunque di qualità anche nelle annate precedenti, quindi ovviamente nessuno pensava a 27 punti dopo 9 partite, però che potesse con un allenatore semplice, intelligente e tra virgolette normale, ma nel senso positivo della parola, ottenere anche dei risultati. Quindi, mister, sì, volevo capire, buonasera anzitutto, ciao, la forza dal punto di vista di un allenatore, come si misura la forza mentale di una squadra? Nel senso che poi oggi la Roma è andata vicinissima a non vincere la partita, diciamolo apertamente, e così come anche nel primo tempo contro il Napoli poteva fare il gol dell'1-0. Questi che cosa sono? Sono segnali? Sono comunque la dimostrazione della compattezza di una squadra che non si scompone mai? Che interpretazione si dà? Ma l'interpretazione è molto semplice, lo dicevo prima, l'ho premesso, voglio dire, non è solo una situazione tattica, faccio riferimento a una consapevolezza di gruppo che credo che sia stato il primo obiettivo che questo allenatore ha perseguito. E lo si intuiva per chi ha sensibilità di calcio anche nelle prime partite, la primissima, il gol di De Rossi, la maniera con la quale hanno festeggiato, tante altre partite, premesso che anche altre squadre sono andate vicino a non vincerle, tipo la Juve a Chievo dove ero presente poi l'ha vinta, insomma, voglio dire, è chiaro che non sempre una squadra vince dimostrando nel nostro campionato una superiorità assoluta, qualche volta, anzi spesso c'è dell'equilibrio, poi la differenza la fanno delle situazioni, quelli che vengono chiamati episodi, ma che spesso sono episodi solo per la cronaca, in realtà è una logica conseguenza di quello che metti sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della coesione di gruppo, della personalità, e credo che la Roma oggi stia esaltando queste due cose che a me sono carissime, insomma, la coesione di gruppo, la maniera semplice di far calcio e anche una maniera semplice di farlo sotto l'aspetto tattico. Oggi è uscito il 10, è uscito un centrocampista, è uscito anche un attaccante, sono rimasti con un attaccante. Sì, tutto molto razionale, tutto molto logico. Il calcio è razionale. Alla fine ha pagato, non è detto che accada sempre, però se accade non è un caso. A me piace molto, mister, la faccia, la tranquillità di Rudy Garcia. Vero che è facile essere tranquilli quando si sono vinte le prime 9 partite, però mi sembra che il tutor, argomento di cui si è parlato molto questa settimana in Italia, serva agli allenatori. Abbiamo sentito prima Conte che ha riproposto ancora, accalorato, la teoria del complotto dei nemici. Allegri, poverino, sta vivendo un momento che è quello che è. Mazzari, settimana scorsa, che non si è presentato dopo la partita, e sinceramente io continuo a non capire perché a una settimana di distanza. Che cosa vi succede? Ma gli allenatori? Sì. Ma questo è purtroppo, gli allenatori in Italia inevitabilmente vengono tra virgolette inquinati da tante altre situazioni, hanno troppa difficoltà rispetto agli altri paesi, e la maniera di parlare di Garcia si vede che è diversa da quella dei nostri allenatori, ma non perché è lui diverso, è diverso perché la cultura del calcio in questo caso, quindi dello sport, è agli antipodi da quella che è la nostra, insomma, per cui gli isterismi o a volte le parole sopra le righe o i comportamenti degli allenatori italiani dipende da una crescita in un contesto folle, a volte, perché gli allenatori, è inutile negarlo, insomma io non faccio una difesa accurata della categoria, però sono dentro una centrifuga, sono dentro una centrifuga, e dentro questa centrifuga non sempre si ha la lucidità per rimanere sereni e calmi, insomma a volte ci si riesce, ci sono allenatori che lo fanno un pochino meglio, altri fanno più fatica ad essere sereni e contenti, però la verità è questa. Quindi, Vedremo Garcia la prima sconfitta allora, Pier, se saprà mantenere questa tranquillità. Ma secondo me si sta aspettando, cioè, c'è un concetto assurdo, vedi, anche questo del nostro calcio, che sembra la Roma vinca le partite perché c'ha fortuna, perché qualsiasi cosa si fa male Pjanic, la punita Totti, la punizione la batte Pjanic e la mette nell'incrocio, tutti dicono se ci fosse stato Totti, cioè la Roma dopo le prime 4-5 partite l'aspettavano tutti dicendo che aveva giocato contro squadre facili, compresa la Lazio, tra virgolette, che non mi sembrava una partita. Poi sono arrivati Inter Napoli, poi è arrivato a Milano, io l'ho vista, ha scherzato con l'Inter perché la partita è stata quella, uno scherzo. Poi ha giocato in casa col Napoli, che insieme alla Juve è la più accreditata. Sì, ha una solidità che certamente esce dagli episodi. Ecco, quello che diciamo. L'Udinese è un anno che non perdeva in casa. Guidolina ha detto la Roma era già la squadra tecnicamente più forte, Pier, no? Una settimana fa. Semplicemente sì, non lo sapeva, Pier. Io questo lo so, però sono d'accordissimo con quello che dice il mister. Cioè, noi giustamente siamo qui che cerchiamo, perché sicuramente è una sorpresa al primo posto della Roma con 9 vittorie consecutive, no? Poi credo che sia normale e giornalisticamente interessante dire quanto durerà, no? Credo che sia un punto di vista ovvio, perché la Roma è forte, ma non si pensava che fosse così forte. Però se dobbiamo vedere il calendario della Roma fin qui, mi sembra che di prove di maturità dal derby in poi ne abbia superate tantissime. Si diceva prima delle due partite con l'Inter e col Napoli che lì avremmo misurato la forza della Roma, c'è più forza di così, oggi 10 contro 11, cioè attenzione a non complicare il pane, come direbbe Samuele Bersani, nel senso che poi alla fine quello che stiamo vedendo, quello che ci sta dando il campionato è che dopo 9 partite questa squadra ha subito un gol, quindi possiamo girare attorno tutto il mondo possibile. Sì, possiamo fare qualunque discorso, ma questa è certamente è una squadra che ha dei valori che sono notevoli. Mister, prima di lasciarla, Balotelli si recupera o no? Perché ho l'impressione si stia perdendo. Io non so cosa ne pensa lei anche di questi ragionamenti a proposito di Tutor, sui cambi di vita, le Ferrari vendute, i brillantini che vengono tolti, la cresta che viene tagliata. Ma io guarda, meglio che non parlo, perché i tutor li metterei non a Balotelli, ma a tanti altri che sono nel calcio, che purtroppo non hanno bisogno di tutor, perché pensano loro di essere i depositari dei vari codici etici, poi in realtà sono no peggio di Balotelli, ma mille volte peggio di lui. Quindi lasciamo perdere questi discorsi, questo è l'ennesimo patrimonio del nostro calcio, che rischia ovviamente, come succede per altri campi, non solo del calcio, di essere disperso. Lui ci mette del suo, ci mancherebbe altro. Non può essere sempre colpa degli altri. No, non può essere, ma a me non me ne frega niente quello che fa, ve lo dico sinceramente. Balotelli fuori, o le freccette, queste sono tutte interpretazioni, o i capelli, oggi non andava bene perché ha tagliato i capelli a zero, quindi si è normalizzato. Se l'avesse, cioè, è una follia. Balotelli va giudicato per quello che fa in campo, e in campo oggi, a mio giudizio, è il miglior attaccante che c'è in Italia, italiano ovviamente. Poi ripeto, noi abbiamo il miglior attaccante che rischia di essere compresso in un qualcosa, ovviamente anche per qualche sua responsabilità, però io so che il ragazzo di 22 anni va aiutato. Il tutor mi sembra una situazione, ha detto bene Raio, facciamo ridere veramente l'Europa, insomma, con certe situazioni, ma non solo per il calcio, quindi il calcio è diciamo una conseguenza di come riusciamo a far ridere l'Europa, insomma. Quindi lasciamo perdere i tutor, Pier. Sì, sono d'accordo, lasciamo perdere i tutor, sono d'accordo con Raiola, sinceramente. Io penso che io un po' meno, te lo dico. No, su questo sono d'accordo con Raiola. Io penso una cosa, che c'è un dato oggettivo della carriera di Balotelli fin qui, e cioè il fatto che lui, che ha dei colpi eccezionali, ad oggi, è vero che è giovane, ma non è più giovanissimo, non ha mai fatto una stagione vera, matura, completa, da 30-35 partite, con 15 gol, con dei comportamenti positivi a 360 gradi. questo è un dato di fatto. Il Milan, quando l'ha preso a gennaio, e l'ha preso a una cifra comunque ragionevole, proprio perché ha preso una scommessa, perché è chiaro, Balotelli è un talento che se fosse perfettamente compiuto anche dal punto di vista della testa, non lo prendi con 20 milioni, lo prendi con 60 milioni per il giocatore. Sì, non lo prendi. Quindi il calcio italiano non lo prende nessuno. Qui ci sono presidenti che hanno sistematicamente esonerato 5 allenatori l'anno, ma la proposta di tutor per questi presidenti l'ha fatta mai nessuno. no, ve la faccio io, no, perché sennò sembra che stiamo parlando, cioè, è tutto normale tranne quello che fa Balotelli. Sì, però mister, non è nemmeno normale che uno come Balotelli, io stavo dando un'occhiata prima ai numeri, nell'ultimo mese di fatto abbia passato più tempo in tribuna fra squalifiche, un piccolo infortunio, che in campo, che non sia stato un fattore con la squadra che affondava. Anche questo non è normale. Assolutamente sì, ma io non sto dicendo, è chiaro che poi lui paga, perché queste sono situazioni che pagherà e quindi di conseguenza ci trova di mezzo la sua carriera, cioè voglio dire, su quello non c'è dubbio, è un giocatore sul quale la società investisce tantissimo, spende molto per lui, ha uno stipendio ricchissimo, quindi cioè, se uno parte da questa considerazione popolare, voglio dire, è normale che sta deludendo, tra virgolette, oltre che se stesso, magari anche i tifosi del Milan per certi comportamenti. Però io credo che certi comportamenti, questa è la mia considerazione, siano una conseguenza per come visto, per come trattato. Ma ripeto, questa è la mia considerazione, perché non tutte le persone sono uguali nel poter recepire quelli che sono i messaggi mediatici, soprattutto a 23 anni, soprattutto se guadagni tantissimo. Grazie mister. Ciao Sergio. Prego. Ciao. Grazie Serse Cosmi. Pier, abbiamo la pubblicità, ci dobbiamo fermare, poi ci torniamo su questa cosa del tutor. Io il tutor a Zamparini lo metto, non so se tu sei d'accordo, però io lo metterei anche a Balotelli. Sì, oppure potrebbero farsi tutor a vicenda. No? Sai che spettacolo. Sì, sarebbe molto divertente, sì. Pubblicità. Ecco il caffè. Ma come, pure la tazzina giallorossa? E te credo, così si beve, devi baciare i colori da Roma. Tutti convocati. Un quarto d'ora alla fine a Stamford Bridge, 1-1 fra Chelsea e Manchester City. 800-24-0024. Pier, andiamo in provincia di Latina. Fabio, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, io sono il tifoso del Toro. Sì. E volevo chiedere a voi come è possibile una cosa del genere, questi arbitraggi così sconvolgenti. Allora, questo ci fa disinnamorare del calcio. Sì, sono 7-8 domeniche di seguito che il Toro subisce cose inaccettabili dall'eterno arbitraggio. Sì, Fabio, certamente oggi in Torino non è stato fortunato, però poi sentiamo Pier che ha seguito proprio Napoli-Torino. Mi sembra che ridurre tutto ai due rigori che non c'erano, No. Oggi sia un po' limitativo. Non ha fatto nemmeno Ventura, del resto. Io non dico questo, io voglio dire, in un paese dove si è alla ricerca della giustizia in tutti i campi, politica, eccetera, eccetera, anche quando uno la domenica vuole vedersi una partita della squadra del cuore o comunque di una squadra che gli piace il calcio, vede delle ingiustizie che nessuno paga. Cioè gli arbitri, io mi chiedo una cosa, prendono i soldi quando arbitrano le partite? Sì, per loro prendono il loro gettone. Certo, prendono i soldi, lavoro. In quel senso, immagino. No, è un lavoro, Pier, come io faccio il mio lavoro. Sì, se io sbaglio nel mio lavoro, pago. Sì, ma anche loro stanno fermi, saltano qualche turno, che significa soldi in meno, Pier? No, c'è qualche problema di collegamento con Pierluigi Pardo. Maurizio, da Milano. Buonasera. Prego. Un rapido commento a proposito del Milan. Sì. Si parla tanto della dirigenza, ma io credo che nessuno... Non sento parlare di Ambrosini. Per me l'aver lasciato andare Ambrosini a fine contratto è stato alla fine un grave errore. Sì, ma per il peso nello spogliatoio soprattutto. Esattamente. Al di là del... E lo dico da tifoso sostenitore dell'Inter, con cui Ambrosini non era certo un giocatore, ma sono un appassionato di calcio, per cui non posso non rilevare questa cosa. Dopodiché dico che si fa un grande parlare che la Juve, la Roma, eccetera, eccetera, sono davanti agli altri. Io mi permetto di sentire, perché per quello che abbiamo visto fino ad oggi, secondo me la Juve ha 6 punti in più Addirittura? Sì, perché non ci dimentichiamo il pareggio, la vittoria del Torino fatta con Tevez gol in fuorigioco. Sì. Non dimentichiamo che col Chievo era un 2-2, non un 2-1, perché il gol era assolutamente regolare. Non l'ho visto oggi, ma sento le radiocronache. Sì, di una partita in cui la Juventus... L'unica la squadra vera che possa essere nel lungo termine alternativa alla Roma, nel lungo termine, credo sia la Fiorentina, perché è un gioco che è assolutamente all'altezza. Se credono un po' di più nei propri mezzi, credo che questo sia veramente la vera alternativa, che meriti di essere un'alternativa per il secondo posto. Sì, Maurizio, però l'impressione, e la ringrazio, che non lo so, mi sembra un po' ingeneroso la Juve, 6 punti in più al Milan regalano, non lo so. Pier, hai sentito anche prima l'amico del Torino? Ho sentito tutto. Secondo me c'è una sola partita della Juve che per l'andamento che stava avendo può essere considerata condizionata, ed è Chievo-Juve, perché Chievo-Juve in effetti quell'episodio lì, il gol del 2-1 che sì, c'era di Panoschi, ma oggi parlare dell'arbitro di Juve-Genoa, ho l'impressione andiamo fuori tema. Ecco, per quanto riguarda il Torino, sicuramente il Torino ha avuto una serie di episodi dall'inizio dell'anno abbastanza clamorosi. L'unica partita dove forse alla fine ha avuto un vantaggio, anche se poi si è arrabbiata perché è stato concesso il rigore al 90esimo alla Samp, è stata quella con la Sampdoria, perché ricorderete che lì c'è stato l'annullamento del gol del 2-0 alla Samp, che probabilmente avrebbe chiuso la partita. Invece da 1-0 poi il Torino è andato 2-1 e poi c'è stato il pareggio su rigore inventato alla fine. Mi sembra che gli arbitri stiano sbagliando molto, poi la quantità di errori non si distribuisce in maniera equa e regolare, quindi capisco la frustrazione del tifoso del Torino prima, sicuramente. Poi onestamente oggi, io la partita l'ho raccontata, il Torino è stato assolutamente penalizzato fino anche alla fine dell'espulsione di Bascia, che era un normalissimo cartellino giallo. Manca la controprova, il Napoli era entrato meglio in campo. Lo sai che secondo me, Pier, c'è qualcuno più frustrato del tifoso del Torino a proposito della questione arbitrale? Te lo faccio sentire? Vai. Naturalmente il penalty, che mi pare molto chiaro, che tutto il mondo ha visto, solamente l'arbitro non ha pitato. Oh, questo è un meraviglioso Carlo Ancelotti. Saluto Paolo Condò, che ieri sera era al Camp Nou. Ciao Paolo, buonasera. Ciao Giovanni, ciao Pier, buona domenica. Proviamo a non parlare però di Ugliano Mallenco, che oggi viene fatto a pezzi dalla stampa di Madrid, viene celebrato da quella di Barcellona. Però l'impressione, arbitro a parte, è che anche il nostro Carletto qualche problemino ce l'abbia, quel titolo di Marca che l'ha definito pauroso. Credo che l'arbitro sia stato, le nefandezze arbitrali, non soltanto contro il Real Madrid di ieri, siano state preziose per Ancelotti, perché abbiano un po' stornato l'attenzione da quella che è una formazione di partenza che è stata assai poco gradita. Non c'è cosa peggiore per i tifosi del Real Madrid e per il loro orgoglio millenario del dimostrare paura, soprattutto quando vai a giocare a Barcellona. Puoi perdere anche 3-0, però se vai con 3 centravanti sarai sempre perdonato. Invece lui è andato con Sergio Ramos schierato davanti alla difesa. Di andare con una riedizione di quello che fece Mourinho con Pepe, di andare con Sergio Ramos davanti alla difesa, non è piaciuto sicuramente. Dopodiché ha concesso un'ora di gioco al Barcellona ed era sopravvissuto, perché il Barcellona in fin dei conti aveva fatto soltanto un gol. E magari se gli viene dato quel rigore può anche vincere la partita, però ai punti è giusto dire che l'ha meritata il Barcellona. Pier, tu conosci bene tra l'altro Carletto. Che alla fine poi fa giurisprudenza, nel senso che quello che dice Paolo è giustissimo, cioè per come c'era vista la partita, sicuramente con la concessione di quel rigore la partita poteva girare anche per una serie di situazioni impreviste, no? Perché poi comunque il Barça probabilmente aveva speso di più, il Real aveva fatto una partita meno generosa e quindi forse col gol dell'1-1 e la possibilità di giocarsi l'ultima mezz'ora tutta avrebbe anche potuto provare a vincere la partita. Sì, però secondo me la vinceva. Però c'è anche da dire, se vogliamo soffermarci sugli episodi che come sapete non sono la mia passione, che Sergio Ramos andava espulso all'inizio del secondo tempo. perché c'era un secondo cartellino giallo nettissimo per fallo su Iniesta. Sì. Con no, ecco, quello che poi alla fine, vedi, alla fine, al di là degli episodi, che significa poi alla fine se e ma, rimane, e in Spagna forse questo concetto per cultura ce l'hanno ancora più forte che in Italia, sicuramente più forte che in Italia, la percezione. E la percezione è stata quella di un Ancelotti che ha giocato sulla voglia di fermare la forza del Barcellona, non sulla volontà di imporre la qualità del Madrid. E questa cosa, come diceva Paolo, lì viene vissuta come un peccato. Una vergogna, come una vergogna. Come una vergogna, esatto. Ma hai l'impressione che sia un po' in difficoltà Ancelotti? Lo è, diciamo, guarda, a dare un'occhiata alla classifica lo è, ma ho l'impressione anche che abbia consumato rapidamente la luna di miele con tutto l'ambiente. No, c'è questo grossissimo problema di Bale, è un problema enorme, perché naturalmente 100 milioni non li puoi lasciare in panchina, però in squadra Bale fatica a entrare. Ve ne posso raccontare una divertente e ancora abbastanza segreta, ringraziatemi per lo scoop. Lo sapete come chiamano i compagni di squadra, come chiamano Bale? Come lo chiamano? Forrest Gump. Forrest Gump. Questo per darvi un'idea della situazione. Cioè che corre e basta. No, Forrest Gump, perché c'è stata anche una imitazione in un programma satirico della televisione spagnola dove c'era Bale seduto tipo Forrest Gump all'inizio. Sì, direi non benissimo. Non benissimo. No. Non benissimo. Insomma, Bale è un velocista che può giocare sostanzialmente nel posto dove vuole giocare Cristiano Ronaldo. Il che significa il non poterlo fare. Il che significa il non poterlo fare, però il che significa casini, fondamentalmente, casini enormi per Carlo, perché comunque lo devi inserire in qualche modo, non puoi lasciare in panchina un giocatore che vuol dire definire il tuo presidente un imbecille, vuol dire lasciare un giocatore da 100 milioni che secondo me ne vale una quarantina. Però ti dico che è Bale. Io voglio dire, Chiaramenti che è costato 30 milioni, a me sembra che qua insomma, sì, no, beh, lì hanno perso la testa completamente. Ragazzi, cioè, poi alla fine e poi vendi Ozil sì, che avrebbe fatto probabilmente più comodo degli altri. Una castronata grande come una casa a vendere Ozil, non c'è dubbio. Però attenzione, guardate che il Barcellona non sta meglio. Ieri Messi ha scioperato perché non gli piace per niente la posizione nella quale l'ha mandato Martino. Ieri è tornato a destra, ieri sembrava di vedere il Barcellona di qualche anno fa, col brasiliano che allora era Ronaldinho, adesso è Neymar, che da sinistra va al centro e Messi confinato sul settore destro, e lui non gradisce per niente questa cosa. Sì, un bel ambientino anche quello di Barcellona. Ci sono grossi rivolgimenti in atto nel calcio spagnolo, che per il momento, per esempio nel Barcellona sono sotto traccia perché vincono tutte o quasi le partite. E quindi, come si sa, vincere mette il silenziatore a tutto. Però stanno succedendo cose in Spagna. Grazie Paolo. Buona domenica a tutti. Buona domenica anche a te. Pier, salutiamo anche te. Sì, perché adesso parlate di Formula 1. Parliamo di Formula 1, di MotoGP, parliamo di... Non è un ammutinamento, vi ascolto per imparare, va bene? Tu torni domani alle 14 con Carlo Genta fino alle 15:20, però resta qui perché oggi è stata una domenica strepitosa, di grandissime emozioni, e non solo per il calcio, ne abbiamo parlato, ma anche per i motori. Ciao Pier! Eccolo qua, campione del mondo. 4 volte, siamo di fronte alla storia della Formula 1. Antonio Boselli con Christian Horner, aspetta Antonio, aspetta un attimo. Scusami, ma che scena, si inchina davanti alla sua macchina, l'ha messa lì. E questo è Sebastian Vettel, ci ha regalato uno show, grazie. Penso che hanno fatto meglio di noi, dobbiamo fargli complimenti, questo è uno sport, sempre vince uno, sempre il migliore, e quest'anno sono stati i migliori. All'inizio è andato con calma, prendendo un'altra volta la fiducia, ma alla fine dai, Jorge era più forte che noi, ho visto che doveva prendere un po' il rischio, ho detto secondo, a Valencia sarà un'altra gara. Tutti convocati. Primo Vettel, secondo Rosberg, terzo Grosjean, quarto Massa e poi via via tutti gli altri fino all'undicesimo posto di Alonso e poi la festa di Vettel. Leo Turrini, buonasera, ciao Leo. Ciao a tutti, ciao. Hai sentito Alonso, questo è uno sport dove ne vince uno, vince sempre il migliore, ha vinto lui che secondo me, fra parentesi, è il migliore, non solo perché è seduto sulla macchina migliore, lui è ovviamente Sebastian Vettel. Guarda, è una passione ineccepibile la tua e anche quella di Alonso, nel senso che voglio dire, quel ragazzo ha raggiunto Prost, dovremmo mettere come colonna sonora un tango perché il suo prossimo appuntamento è coi 5 titoli ridati di Fangio. C'è però una cosa che dobbiamo dire, è che lo stesso Vettel secondo me ha voluto idealmente, platealmente riconoscere con quell'inchino, quell'inginocchiarsi davanti alla Red Bull subito dopo il quarto Gran Premio dell'India, dispone di una macchina che, per dire, Prost o Schumi o lo stesso Fangio non sempre hanno avuto, cioè è un grande, appartiene di diritto alla schiera dei fenomeni, ma rispetto a altri fenomeni del passato questa supremazia dei bibitari è talmente schiacciante che, insomma, te la faccio breve, io vorrei vedere Vettel vincere un titolo mondiale, magari l'ottavo, così batte il record di Schumi, con una macchina diversa da sì, quella ma credo che capiterà, Leo. Vettel ha 26 anni, ha 26, giusto? Per cui stiamo parlando di un fenomeno anche di precocità, stiamo parlando di un pilota che ha questa qualità straordinaria, cioè non sbaglia mai. Poi io non so se la Ferrari di Schumacher, quella almeno di tante stagioni, fosse così meno superiore della Red Bull di oggi. Allora, guarda, la Ferrari di Schumi certamente in alcune stagioni, tipo il 2002, il 2004, era come questa Red Bull qui, perché nel 2004 la Ferrari tra il tedesco e Barrichello vinse 15 corse su 17, però ci sono anche state stagioni nelle quali le sue imprese iridate, il primo tedesco, cioè il vecchio zio di Kerpen, se l'è dovuto sudare un po' di più, soprattutto se tu prendi in questo campionato da Spa in poi, la Red Bull è stata sistematicamente dopo le vacanze ha vinto sempre, ma sì, insomma, se ne sono usciti con qualcosa di nuovo sulla macchina che ha permesso a questo talento strepitoso di dominare, insomma, questo mancava solo, voglio dire, che si fermasse, facesse delle soste ordinando un cappuccino, ma oggi l'ha fatto perché si è fermato dopo due giri, tutti aspettavano che la sosta arrivasse un po' dopo e poi 17° posto, 16°, 15°, via via, e la gara l'ha vinta. È la dimostrazione che Vettel ha una macchina in questo momento che gli permette di umiliare la concorrenza. Sì. E questo non toglie niente però ai meriti del ragazzo, perché quando uno ragiona così gli dicono ma allora tu vuoi sminuirlo, no, per carità, però diciamola tutta fino in fondo, insomma. Leo, Ferrari un po' sfigata a proposito di dirla tutta fino in fondo, perché probabilmente non avrebbe mai vinto, però la gara e la tattica, la strategia di Alonso sono durate di fatto 200 metri, poi c'è stato quel tocco con Webber, l'ala danneggiata e la gara di Alonso è finita lì. Sì, allora mettiamola così, indubbiamente è stato un episodio da ricondurre alla sfortuna, però Enzo Ferrari diceva che la sfortuna non esiste. Mi spiego, è chiaro che se in qualifica Alonso parte sempre dalla quarta, quinta fila, è più probabile che sia coinvolto in episodi, diciamo, sfigati di quanto invece non accadrebbe se partisse più avanti. Allora, il vero dato di questi 4 anni, ferma restando la qualità della Red Bull, il talento enorme di Vettel e la genialità, la Harry Potter di Adrian Newey, è che se tu prendi gli ultimi 50 Gran Premi, vai a vedere, Vettel è partito davanti ad Alonso 45 volte. Sì, così diventa difficile. Questo significa che il tallone d'Achille della Ferrari, tra tanti altri problemi, l'incapacità di sfruttare le gomme, eccetera, eccetera, tutto quello che vuoi tu, è però il tallone d'Achille il sabato. Io una cosa del genere, se su 50 Gran Premi tu sei Alonso, non esattamente un pilota mediocre, e parti 45 volte dietro, insomma. Sì, qualche ragionamento lo devi fare. A proposito dei giovani fenomeni, ho visto un altro giovane fenomeno, Marquez, ragionare a 20 anni come fa un trentenne per amministrare quel vantaggio, sono 13 adesso i punti, nella MotoGP, che credo tra due settimane a Valencia lo porterà al titolo, credo, anche se ha una pressione sulle spalle che è notevole. Guarda, questo è un tema interessante che si lega anche a Vettel, nel senso che negli sport dei motori c'è stata una rivoluzione generazionale, è una roba degli ultimi 5, massimo 10 anni, cioè sono sempre più giovani i grandi protagonisti che cominciano. Io ci pensavo oggi, dato che ahimè purtroppo c'ero, quando Prost vinse il suo quarto titolo 20 anni fa in Portogallo, no? Era un veterano. Oggi Vettel è allo stesso traguardo avendo insomma 26 anni, capisci? Mark, che è un altro ragazzino, ed è abbastanza curiosa questa cosa, perché se tu vai a vedere altre discipline, prendi, non lo so, il ciclismo, no? È sempre più facile che invece i campioni maturino dopo. Io adesso qui non ti voglio fare discorsi. No, dopo, lasciamo, no? Lasciamo stare altri però, discorsi. Però comunque è così, o prendi anche, non so, la NBA. Nel basket americano, non è che Kobe Bryant degli infortuni sia un ragazzo, no? Sì, però, ma vale anche per il calcio, dove a parte qualche assoluto fenomeno, penso a Messi che da bambino aveva praticamente già vinto tutto, poi comunque bisogna fare un po' di gavetta. Però a me oggi Marquez è piaciuto tanto, perché Marquez era un po' il cattivo ragazzo della MotoGP, ce l'avevano tutti con lui, aveva gli occhi puntati tutti addosso, e lui oggi si è gestito davvero come un veterano. Io credo appunto che Marquez, come Vettel, siano figli della PlayStation. Questi, quando erano bambini, esistevano già i videogiochi, i computer, eccetera, e hanno imparato lì anche a gestire le emozioni nei momenti supremi, no? Perché, come dicevi tu, Marquez ha corso con il piglio di uno che ha 100 presenze alle spalle della MotoGP. Vettel, in certe situazioni, ad esempio l'anno scorso, quando ha lottato con Alonso per il titolo fino all'ultima gara, ha sfoggiato una maturità impressionante. Evidentemente, ti dicevo prima, c'è qualche cosa che è cambiato. Avranno giocato alla PlayStation, quindi tutti a giocare alla PlayStation, altro che Tutor. È la chiave. Il Tutor non lo so se serva veramente a Balotelli. Certamente. Di sicuro non serve a Marquez e neanche a Vettel. Grazie Leo. Ciao, grazie a tutti. Grazie a Leo Turrini. Noi siamo in chiusura. Intanto il Chelsea ha vinto 2-1, rete al 94esimo di Fernando Torres. Vi invito ad andarla a vedere, vi invito anche ad andare a vedere le esultanze di Mourinho. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con tutti i convocati weekend è per settimana prossima, domenica, ancora a partire dalle 17. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi e Paolo Corleone in regia. Tutti i convocati torna domani alle 14 con Carlo Genta e Pierluigi Pardo.